Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Stiamo rientrando in Cina, nella hometown di mia moglie, la città dove lei è nata, per festeggiare il nostro matrimonio celebrato lo scorso anno. Abbiamo aspettato un anno intero, poiché il Feng Shui consigliava il 2014. Questioni di allineamento lunare. Ciao, mi chiamo Francesco, ho 32 anni e vivo a Campinas, in Brasile. Sono nato a Feltre, in provincia di Belluno. Ho la fortuna di lavorare in giro per il mondo, per una grande azienda multinazionale, e la fortuna di aver sposato una meravigliosa ragazza cinese che adesso vive qui con me. Le cose stavano dunque a questo punto, quando tutto a un tratto l'ispagnola toccò il fondo. Vacillò, si incagliò per un momento nella sabbia e poi in un baleno sbandò a sinistra finché il ponte si inclinò di 45 gradi e una mezza tonnellata d'acqua si riversò negli ombrinali formando una pozza tra il ponte e la murata. Finimmo tutte e due a gambe all'aria nel giro di un secondo e rotolammo quasi contemporaneamente fino agli ombrinali. Il morto col berretto rosso, le braccia ancora spalancate, ruzzolò rigido dietro di noi. Eravamo in effetti talmente vicini che la mia testa andò a sbattere contro il piede del timoniere così forte da farmi scricchiolare i denti. Malgrado il colpo, fui io il primo a rialzarmi, perché Hans era incappato nel cadavere. La prontezza mi aveva salvato, il pugnale si conficcò appena sotto di me, mentre continuavo la mia fuga verso l'alto. Israel Hans era rimasto lì a bocca aperta e con la faccia rivolta verso la mia, un'incarnazione perfetta della sorpresa e della delusione. Adesso che avevo un attimo di tempo, non tardai a cambiare l'innesco della mia pistola. Poi, avendone una già pronta, e per sentirmi due volte sicuro, mi misi a svuotare l'altra e a caricarla da capo. Questa mia nuova occupazione lasciò Hans di stucco. Cominciò a intuire che la fortuna era dalla mia parte e dopo un'evidente esitazione si issò anch'egli a fatica tra le sartie e col coltello tra i denti incominciò ad arrampicarsi con penosa lentezza. Gli costò tempo e lamenti senza fine trascinarsi dietro la sua gamba ferita. E io avevo tranquillamente terminato i miei preparativi molto prima che lui giungesse a un terzo del percorso. Allora, con una pistola in ciascuna mano, mi rivolsi a lui. «Un altro passo, signor Hans», gli dissi, «e vi faccio saltare le cervella. I morti non mordono, lo sapete». Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma E voi siete qui e il pezzo che vi ho appena letto è tratto da L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. In questa settimana, che è tutta dedicata all'avventura, vi leggo 5 pezzi in una sorta di, diciamo, cronologia temporale di questo splendido libro. Ve l'ho letto lunedì, martedì, mercoledì e domani sarà l'ultimo, che per me è il libro d'avventura assoluto. Cioè, quando si parla d'avventura a me viene in mente questo libro che avevo letto da bambino e me l'ero completamente dimenticato. E poi l'ho letto da grande e insomma leggetelo se non l'avete ancora fatto. In questo pezzo Jim si trova insieme a questo Israel Hans, che è un pirata sull'ispagnola, sulla nave, e sono da soli perché sono tutti sull'isola, insomma alla fine ne esce vivo nonostante questo lo voglia uccidere di fatto. 349-238-6666. Ma veniamo alla storia di oggi. Domani l'ultimo pezzo dell'Isola del Tesoro e domani un'altra storia, ma veniamo alla storia di oggi. Lo avete sentito nel lancio, nell'introduzione. La storia di oggi è una strana storia di avventura. Questa settimana è tutta dedicata all'avventura, come vi dicevo, però la storia di Francesco e di sua moglie è una storia particolare, perché parla di una storia d'amore, ovviamente, come avete sentito, di un matrimonio, ma racconta soprattutto dell'avventura di un uomo, un tizio italiano, che è vero che vive in giro per il mondo, perché lavora in giro per il mondo, ma incontra una donna cinese e va a sposarsi là, in un posto incredibile, con tradizioni pazzesche, che lui racconta bene dopo un viaggio interminabile. Si parla di avventura, si continua a raccontare storie. Questa è la storia di Francesco e di sua moglie, questa è la loro avventura. Fine aprile, ore 18. Una pioggia persistente continua a cadere da 2 giorni nell'area tropicale sita a sud della Cina, dove la stagione delle piogge inizia a fare capolino. Sono solo 18 gradi contro i 25-28 tipici della stagione. Mi trovo da alcuni giorni qui per lavoro. Un fiume di giovani esce dallo stabilimento di produzione con le loro caratteristiche camicie azzurre tutte uguali, seguendo un ordine a noi europei sconosciuto. Il cambio turno è uno spettacolo imperdibile di sincronizzazione cinese che lascia affascinati tutti gli occidentali della zona. Si avvicina a un taxi dal quale una voce mi urla in perfetto italiano: «Sono qui!» È mia moglie, sposata nel settembre dello scorso anno e che ora vive con me in Sud America, dove nel frattempo ci siamo trasferiti per lavoro. Mia moglie si chiama Linli, ma per tutti gli stranieri si chiama Sissi, come tutti i cinesi ha un nickname, e ci siamo conosciuti per caso, veramente per caso, in un locale notturno in Cina, perché una persona le pestò il piede e lei uscì infortunata e io andai a soccorrerla. Il tassista apre il bagagliaio, carica le valigie e ci porta alla stazione degli autobus. Una delle più grandi che io abbia mai visto, da cui ogni giorno milioni di persone raggiungono i paesini più improbabili dell'entroterra cinese. Fuori continua a piovere ed il grigio contrasta con il verde rigoglioso della vegetazione dei parchi che incontriamo e il giallo, colore caratteristico degli autobus locali. Scendiamo, paghiamo il tassista che nel mentre mi chiede se sono americano e alla risposta italiano sorride con segno di approvazione, come se lui in Italia ci fosse già stato molte volte, anche se probabilmente non si è mai mosso dalla città in cui lavora. Il tipico cinese riservato, curioso, ma che non ti fa sentire in imbarazzo solo perché sei straniero. Orario e clima fanno sì che ormai sia buio. Mia moglie compra i biglietti e io una Coca-Cola per energizzarmi un po' prima della nottata da trascorrere on the road. Stiamo rientrando nella hometown, la città dove lei è nata, per festeggiare il nostro matrimonio, celebrato lo scorso anno. Abbiamo aspettato ben un anno, poiché il Feng Shui consigliava il 2014, questioni di allineamento lunare, per il nostro matrimonio. 5 minuti alle 6, apre il gate, carichiamo i bagagli e alle 6 in punto un pullman GT parte mezzo vuoto alla volta della nostra destinazione. Però si riempirà strada facendo, raccogliendo ragazzi che stanno rientrando nelle campagne dopo mesi o anni di lavoro in città, alcuni dei quali con valigioni da trasloco riempiti di pentolame e di coperte. Mi addormento rapidamente, affaticato dalla settimana lavorativa. Quando mi risveglio scopro che siamo rimasti 6 ore fermi in autostrada a causa di un grave incidente. Non me ne sono accorto minimamente, nonostante l'odore di aglio che proviene dal sedile prossimo al mio. Sto dormendo e recuperando energie per la festa di matrimonio che abbiamo organizzato nella casa dei genitori di lei, come vuole la più antica tradizione locale. Non è la prima volta che salgo nel paesino natale di mia moglie, paesino, come lo chiama lei, di 300.000 anime a 500 km nord di Hong Kong. Un paese che sta entrando nell'era industriale, con fabbriche che iniziano a sorgere fra le risaie, palazzoni da 20 piani che contrastano con le case basse all'orizzonte, case rosso mattone che ancora non hanno la doccia o l'acqua corrente, ma che di sicuro hanno una rete wifi, perché in Cina puoi essere un agricoltore ma lo smartphone non te lo toglie nessuno. Arriviamo alle 13 sotto un cielo plumbeo e ancora carico di pioggia. Solo 6 ore di ritardo, ma fortunatamente la festa l'avevamo già organizzata a distanza tramite QQ, lo Skype asiatico, seguendo un rigido protocollo locale per evitare qualsiasi gaffe sociale. Già uno sposo occidentale sarebbe proibito nel 90% delle famiglie, quindi il protocollo andava rispettato. Prima del matrimonio, la tradizione prevede solo un rapido pranzo con i parenti più stretti. Le nostre 6 ore di ritardo non avevano scoraggiato 50 parenti a presentarsi, mangiare e andarsene prima del nostro arrivo. Ottimo per me. Sembra strano, ma la cultura asiatica mette sempre al centro il gruppo e non il singolo. Noi saremmo arrivati comunque. Non eravamo indispensabili quel giorno. La vera festa sarebbe stata il 1° maggio, il giorno successivo. Sono le 22, ormai. Meglio andare a letto perché domani sarà un lungo giorno. La mattina dopo vago un po' fra le varie stanze della casa e nel mentre arriva la sposa bella preparata. Andiamo a vestirci, stanno arrivando tutti. Io indosso il mio abito grigio, annodo la cravatta rossa e lei si infila nel meraviglioso cipao tradizionale, rosso, intenso, che però ha disegnato lei, evitando di riempirlo dei mille simboli, draghi, fenici dorate, che poco si avvicinano ai gusti occidentali, che lei ormai sposa parzialmente dopo anni di convivenza all'estero. Sono arrivati ospiti importanti e, come vuole la tradizione, vanno accolti con un frastuono di petardi rigorosamente rossi. Rossi come le buste che ci vengono consegnate in continuazione, piene di banconote da 100 RMB, rigorosamente nuove. Buste che vanno consegnate più spesso all'ingresso, dove due volontari, dotati di apposito libro mastro, prenderanno nota del nome della famiglia e dell'importo versato. La società cinese prevede questa forma di prestito che verrà restituito quando il convitato organizzerà un evento simile. Se tu vieni al matrimonio e mi paghi tot, io farò lo stesso quando verrò al tuo. Non mi è mai capitato di sentirmi fuori posto, perché ero già stato varie volte nel suo paese, perché veramente sono sempre stati tutti super gentili. Certo, ogni 10 minuti qualcuno che ti ferma per fare una foto con uno straniero, questo un po' fa un po' strano. Sono quasi le 12 e anche in Cina significa ora di pranzo. La prima tavola rotonda da 10 persone viene preparata. Trattasi della tavola posta verso il muro, sotto l'effigie di Mao, che la famiglia di mia moglie ancora venera come una divinità. Vengono preparate 6 scodelle di cibo e 6 di riso. Vengono accesi 2 incensi appesi alla parete e altri sull'angolo della casa, mentre una seconda persona brucia della carta a forma di banconota sotto il tavolo. Un rito buddista pagano per ricordare gli antenati e chiedere la loro protezione per la nuova coppia. Gli anziani, vivi o morti, sono sempre la guida della comunità. In men che non si dica, tutti sono seduti in tavole da 10 e il cibo è in tavola pronto per essere impacchettato. Sì, prima di pranzare tutti, dotati di una specifica borsa rossa, tutti quanti raccolgono alcune porzioni di cibo che poi distribuiranno a casa loro, per condividere l'evento con il resto della famiglia che non ha presenziato in prima persona. Devo ammettere che questa tradizione per me è molto strana, ma nuovamente la priorità è la condivisione con la società. Una volta che le borsette sono pronte, gli invitati iniziano a mangiare, mentre io e mia moglie passiamo di tavolo in tavolo distribuendo sigarette. Tassativamente 2 a persona, esclusi i bambini, di un brand specifico che il padre della sposa aveva anticipatamente comprato e che mi ricorda di distribuire con cadenza di 10 minuti. Ad ogni tavola poi è doveroso un brindisi e un ganbei, ovvero il bicchiere di birra o di vino, scolato di un sorso e poggiato vuoto con forza sul tavolo. Fuori la temperatura supera già i 30 gradi e tutti vogliono mangiare all'interno per evitare di abbronzarsi, perché nelle zone di campagna la carnagione bianchissima è ancora un must, così da non essere scambiati per dei poveri contadini, mentre nelle città le lampade abbronzanti sono ormai parzialmente sdoganate per seguire i canoni di bellezza occidentali. In 25-30 minuti la prima tornata di 100 persone ha mangiato, tocca alla seconda. Altre 60 persone, cui ci uniremo anche noi per mangiare, mentre i primi 100 scompaiono, come da tradizione. Proprio così. Non servono 10 minuti per fare svanire come nel nulla un centinaio di persone che, una volta presenziato all'evento, devono tornare nelle loro case. Sono le 14:30. Anche la seconda tornata ho ormai mangiato, bevuto e fumato. E solo pochi amici di università di mia moglie, con un profilo culturale meno campagnolo, rimangono a conversare nella lingua locale, di cui io naturalmente non intendo nulla. Alle 15:30 le tavole sono già tutte ripiegate, il pavimento è stato pulito ed una schiera di signore volontarie stanno lavando le stoviglie e i bastoncini nella fontana esterna. Il sole è altissimo, quasi verticale, e posso togliere giacca e cravatta per respirare un po'. Il matrimonio occidentale dell'anno si è concluso con alcuni locali che si erano intrufolati solo per scattare una foto con me, e io sono sopravvissuto. Passano pochi giorni, il meteo volge nuovamente alla pioggia e noi siamo pronti per tornare a casa. Pullman, taxi e 2 aerei per coprire i 20.000 chilometri che ci separano dal nostro appartamento in Brasile, dove oggi viviamo da famiglia italo-cinese. Cada um saiu pra farra. Dagmar não tava não. Dagmar não tava não. Olha o biquíni dela, cavadinho, bonitinho. Essa nega é muito boa. Dagmar não tava não. Dagmar não tava não. Francesco e sua moglie sono in posa vestiti da matrimonio, come avete appena sentito. Lui ha un abito occidentale normale con una bella cravatta rossa su camicia bianca, lei ha un abito rosso proprio come l'ha descritto, tipicamente insomma cinese, come ve lo immaginate. Sono su un bel prato fino fino, alle spalle delle mura è una sorta di foresta verdissima. Lui è sorridente, sembra proprio in posa, dai fate sta foto. Lei invece sorride amabilmente, è innamoratissima e soprattutto è una bellissima ragazza. Pronto Francesco? Ciao Matteo, ciao, buongiorno. Piacere sentirvi. È un piacere buongiorno. Mio e nostro, soprattutto perché sei a casa tua in Brasile in questo momento. Esattamente, sono in Brasile. In quale città esatta? Campinas, 100 km all'interno di San Paolo. Ok, e che cosa ci fai in Brasile? Che ci faccio? Viviamo e lavoriamo, ho la fortuna di lavorare per un'azienda che mi fa fare questa esperienza in giro per il mondo. Ah, quindi è un'azienda italiana? Sì, è un'azienda italiana. Che si occupa di? Cosa fate? Occhiali. Occhiali, ok. Occhiali. Immagino sia quella che sto immaginando, insomma. È proprio quell'azienda lì che immaginiamo che fa occhiali in giro per il mondo. Quindi te ne fai un bel po' di giri per il mondo grazie a loro, oppure... Sono molto fortunato, da più di un anno ormai viviamo qui in Brasile e sono quasi 5 anni che non vivo più in Italia. Ti piace? Ti diverti? Tantissimo. Quanto è grande Campinas? Campinas ha poco più di 2 milioni di abitanti, una delle aree più sviluppate del Brasile. E come si vive? Si vive bene, tranquilli? Cioè... Si vive molto bene, una delle aree più tranquille di tutto il Brasile, c'è sempre un sole, un clima meraviglioso, veramente il Brasile come qualità della vita e clima, wow, spettacolare. Anche adesso che è inverno, guarda, l'abbiamo ovviamente imparato seguendo i mondiali, no? Era inverno ma tipo a Rio c'erano 27 gradi, tra l'altro a proposito di mondiali che sono appena finiti, hai visto qualche partita, ne hai approfittato per andare a vedere qualcosa oppure te le sei gustati? Non ho avuto l'opportunità di vedere delle partite sul campo, anche perché uno purtroppo dei lati negativi del Brasile è che muoversi qui è molto complicato per trasporti, per sicurezza, quindi alla fine non ci siamo gettati in questa avventura. Le okay. In TV perché qui si ferma un paese. Eh beh, insomma, l'abbiamo visto. Senti, invece veniamo a tua moglie che, vabbè, complimenti perché è bellissima e siete una bella... Senza nulla togliere a te, Francesco, ovviamente, però insomma, dalla foto che si può vedere sul nostro sito, che è proprio il giorno del matrimonio, giusto? Perché siete vestiti come hai appena descritto. Questo è il terzo matrimonio, perché abbiamo fatto matrimonio in Italia, in Cina. Quella foto viene dal matrimonio in Italia. Ah, questo è in Italia? Sì. Io già mi immaginavo una foresta tropicale alle tue spalle, invece dove sei? A Siena? Dove ti trovi? No, lì siamo vicino a Belluno, vicino a casa dei miei genitori. Ok, senti, invece chiaramente noi siamo affascinatissimi da questo, immagino, non siamo gli unici, no? Cioè andare in un posto così lontano da noi, qual è la cosa proprio, la loro tradizione che già un po' ci hai raccontato nella storia, ma che più in assoluto ti ha sconvolto? Cioè che dicevi, ma no, questa cosa non è possibile. Guarda, sono due cose che veramente ho fatto un po' fatica a digerire: il numero di persone che si presentano sconosciute, che nemmeno lei conosceva, quindi tu ti trovi delle persone che nessuno conosce e lei fa fatica a dirti chi sono, perché devono per forza venire al matrimonio, sono dei parenti distanti o venivano solamente per vedere me, sapendo che ero uno straniero. E una tradizione veramente divertente di denaro: loro si scambiano all'arrivo del matrimonio delle buste rosse che chiamano lucky money, soldi della fortuna. Mm-hmm. E scrivono su un libro persona per persona quanti soldi sono, è una sorta di prestito. Quando la persona che ti ha pagato in questo caso avrà un evento simile, tu dovrai restituire esattamente la stessa somma di denaro, e questa è stata un'esperienza veramente significativa. Senti, invece da un punto di vista proprio dello scambio culturale, del vivere con una donna, beh, lei, tu l'hai conosciuta in Cina, lei, giusto? Sì. Ok, sì. Quindi di fatto è uscita dalla Cina grazie a te oppure già aveva viaggiato prima? Lei già ha viaggiato prima lavorando per imprese multinazionali. Ah, ok, ok. Quindi, insomma, lei, diciamo, da quanto dici, perdonami il termine, è un po' più occidentalizzata probabilmente della sua famiglia e dei suoi amici, però vivendo con lei da quanto state insieme? Più di 3 anni. In questi 3 anni c'è qualcosa che comunque risulta complicato per due persone che hanno tradizioni e origini così diverse? Beh, ci sono delle sensibilità diverse, quindi succede e continua a succedere anche dopo 3 anni che uno dei due dica delle frasi pensando di non toccare la sensibilità dell'altra persona e l'altro le percepisca in maniera completamente diversa. Ah, e okay. Poi ti accorgi che è semplicemente un delta di cultura, una differenza di colori che ognuno vede in funzione delle esperienze che ha avuto precedentemente. Tu sei un ingegnere, Francesco? Sì. Beh, ok, diciamo il delta di cultura ha dichiarato ovviamente la tua origine, la tua formazione, e io adoro gli ingegneri per questo, perché comunque si tradiscono sempre a un certo punto. In questa settimana in cui noi raccontiamo storie di avventura abbiamo voluto scegliere questa, perché questa è veramente, insomma, ha a che fare con i sentimenti e con l'amore, però direi che questa è veramente una grandissima avventura e vi auguro il meglio per la vostra continuazione. In bocca al lupo, Francesco. Grazie mille, Matteo. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Intanto mi scrivono sul profilo Facebook del programma che Voi Siete Qui Radio 24, il colore dominante della cerimonia cinese a partire dal vestito della sposa è proprio il rosso, simbolo di prosperità e felicità. Poi dicono che in teoria oggi le spose cinesi si cambiano anche di bianco, ma la sera si rimettono di nuovo l'abito rosso. 3 abiti a matrimonio. Grazie a tutti quelli che hanno raccontato e che hanno dato una mano alla puntata di oggi, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Hina. Domani continuiamo a raccontare storie d'avventura, domani è l'ultima puntata e poi la settimana prossima storie di viaggi. Grazie soprattutto a Francesco, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.